Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno cari amici, buongiorno e benvenuti. Noi ci siamo, abbiamo Filippa Oreggi in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, tante cose di cui occuparci. Andiamo a sentire. Unghie tra salute e bellezza. Lesmaniosi, a rischio il cane e il suo padrone. Dall'Oriente alle nostre tavole arrivano gli shiitake. Forma, colore, consistenza. Tenete a mente queste tre parole e osservatevi le unghie. Chiamateci all'800 24 00 24. Oggi in linea con noi abbiamo il dottor Massimiliano Pazzaglia, dermatologo all'Università di Bologna. Dottor Pazzaglia, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e bentrovati. Dottore, le unghie ci piacciono soprattutto pulite. Poi se sono belle curate ci piacciono ancora di più, ma non è solo un problema estetico, perché l'aspetto delle nostre unghie fornisce informazioni importanti al nostro interlocutore, sicuramente, perché sono un po' il nostro biglietto da visita, ma anche e soprattutto al nostro medico, è così? Assolutamente sì, come dicevano le nonne, diciamo che le persone curate si riconoscono dall'aspetto delle unghie e dall'aspetto delle scarpe, no? Che sono i particolari che spesso non si valutano. E anche da un punto di vista medico le unghie sono uno specchio della salute. Ci sono delle malattie che interessano specificatamente le unghie, ma ce ne sono anche altre che sono sintomo di patologie che possono essere sistemiche, ossia che possono riguardare tutto il nostro organismo. Senta dottore, noi ne abbiamo 20, no? Ma ogni unghia, anche se apparentemente uguale all'altra, racconta una storia diversa. Assolutamente, le unghie sono un po' come la corteccia dell'albero, anche da un punto di vista medico-legale si figuri che rivestono un'importanza, perché tutto quello che assumiamo, tutto quello che facciamo con le mani viene registrato proprio anche da quello che viene incorporato nelle unghie, ma possono essere ad esempio, a seconda della localizzazione, quello che si svolge ad esempio a livello degli alluci con un eventuale incarnimento non si svolge a livello delle dita delle mani, delle certo. Unghie delle mani. Ad esempio anche per quanto riguarda la forma, magari quella del mignolo del piede magari è più incurvata. È più incurvata anche per un discorso che è sottoposto a un maggiore traumatismo, in particolar modo il quinto dito e in particolar modo nelle donne che utilizzano delle calzature piuttosto strette, è la parte che viene più spesso traumatizzata. Massacrata, brava, il termine esatto è questo qui. Ed è anche quella che piace meno proprio perché il traumatismo cronico ha portato a scurire, a sì. Modificare la forma della lamina. Allora, direi ai nostri amici da casa di iniziare a osservare le unghie con attenzione. Potremmo iniziare a lavorare sulla superficie. È liscia o fessurata, dottor Pazzaglia, oppure ondulata? Quali sono i sintomi che possiamo e che cosa? Le alterazioni possono essere davvero molte, possono essere davvero tante. Si figuri che a seconda del tipo di patologia si può fare diagnosi proprio strettamente legata a quello che è l'aspetto dell'unghia. Ma parlando di cose più semplici, diciamo che delle variazioni da un punto di vista della superficie possono essere presenti nelle casalinghe che si lavano molto spesso le mani, certo. O nelle ragazze o nei ragazzi che possono avere dei piccoli tic che portano ad avere l'onicofagia, ossia a mangiarsi le unghie. Sì, ne abbiamo proprio parlato in questa settimana di tic, piccole manie, ossessioni, e abbiamo toccato anche il tema dei rosicchiatori di unghie. E dottor Pazzaglia, io aggiungerei anche, cercheremo di guardarle tutte secondo con attenzione, ma anche il colore è importante. L'unghia sana ha un colore uniforme rosato, ma a volte le nostre unghie si macchiano o cambiano di colore, e questo la dice lunga, vero? Assolutamente. Le unghie che sono sane, che stanno bene, sono trasparenti, come ha detto lei, hanno questo colorito rosato che è dovuto ai capillari che sono presenti nel letto ungueale, sì. E lasciano ben trasparire quello che è il colore dei capillari al di sotto della lamina ungueale. Ci possono essere delle variazioni di colore che possono essere esogene, ossia dovute da cose che arrivano dall'esterno, sì. Come ad esempio la vecchia, che adesso comunque si vede molto meno, intossicazione da nicotina dei certo. Fumatori cronici. ma possono essere anche dovute ad esposizioni professionali. Recentemente mi è capitato di vedere un signore che aveva come abitudine di fare il nocino e che si pigmentava le unghie proprio perché toccava il mallo delle noci che dava questa pigmentazione. Sì, che poi è difficile da togliere. Quasi impossibile. Bisogna aspettare che l'unghia ricresca e che ricresca non pigmentata. Allora, io adesso ci siamo occupati di unghie delle mani, ma noi vorremmo anche occuparci naturalmente delle unghie dei piedi. Non vi dico di togliervi le scarpe, ma se siete nelle condizioni di farlo, buttate un occhio anche alle unghie dei piedi e chiamateci 800 24 0024. I messaggi 349 238 6666. Una mela al giorno. E nell'attesa delle vostre chiamate voltiamo pagina per occuparci di leishmaniosi. È una malattia che i proprietari dei cani dovrebbero conoscere per poter prevenire adeguatamente. In linea con noi abbiamo il dottor Luigi Gradoni, parassitologo all'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno dottore, grazie. Buongiorno, grazie a voi. Dottore, tutto parte da una specie di zanzara, il flebotomo, che poi è il pappataccio, no? Per sì, chiamarlo una... come si mangia, insomma. Sì, esatto, a parte flebotomo. Flebotomo. Sì, purtroppo viene scambiato, viene spesso detto, nominato come zanzara, ma in realtà è molto diverso da una zanzara, è molto più piccolo e silenzioso. E per questo probabilmente la gente lo conosce di meno. E poi non è presente in territorio urbano, diciamo all'interno delle città. I flebotomi sono molto rari, quindi chi ha una casa in campagna o chi fa gite la sera fuori dalle città magari lo conosce meglio. Quindi nei parchi cittadini? Nei parchi cittadini è molto raro, è molto raro. Comunque, come ha detto, tutto parte da questo flebotomo. Sì. O papataccio. O papataccio. Che è il vettore di questo piccolo parassita, che è un protozoo, che causa la leishmaniosi. Stiamo parlando in questo periodo. Sì, perché questo è il rischio, è il periodo perché d'oro. Sta uscendo fuori a fine di questo mese, passa l'inverno sotto forma di larva nel terreno, verso fine maggio cominciano a uscire gli adulti solo la notte, diciamo dalla sera al tramonto fino all'alba e durante tutto il periodo estivo, a seconda delle latitudini. Possiamo averlo presente fino a novembre, per esempio, in Sicilia, oppure a settembre nel nord Italia. Sono sempre le femmine, come succede per le zanzare, che pungono o no? Uguale, sì, perché hanno bisogno di un pasto di sangue per poter maturare le uova. E pasteggiano sui nostri cani? Pasteggiano un po' su tutti gli animali a sangue caldo, in realtà. Ah. I cani sono quelli che sono le vittime quando il flebotomo, dopo aver punto su un cane infetto, punge su un cane sano, la seconda volta che deve rifare il pasto di sangue, va a pungere su un cane sano e lo infetta con questo parassita, leishmania. Senta, ma il proprietario del cane come fa ad accorgersi che il suo cane si è ammalato? È una malattia abbastanza subdola, però chi ha cura del proprio cane può cominciare a notare una certa svogliatezza, un dimagrimento, non in maniera rapida, veloce. È una malattia che evolve nell'arco di mesi, di parecchi mesi. Poi il pelo comincia ad apparire opaco e appare della forfora. Sì. Diciamo, le forme più avanzate poi sono eclatanti, ma normalmente... Questi sono i primi segnali. Questi sono proprio i primi segnali che devono far suggerire di portare il cane al veterinario. Dottore, ma quali sono i rischi per l'uomo? La trasmissione avviene poi in modo diretto, cane-uomo o indiretto? Cioè, no, avviene sempre solo per via flebotomo, quindi... è praticamente impossibile che un cane con leishmaniosi che abbiamo in casa ci possa trasmettere questa malattia. Okay. C'è sempre bisogno del flebotomo che poi va a pungere altrove a distanza di centinaia di metri o anche un chilometro, quindi il proprio cane infetto magari può fungere da serbatoio di infezione per un altro cane o un uomo che sta a 500 metri. I sintomi della leishmaniosi umana? Anche qui siamo messi male. Malino, stanchezza. No, l'essere umano non è messo male come il cane perché è molto resistente al parassita. Quindi diciamo il numero di casi umani sono molto molto pochi, si aggirano in tutta Italia non più di 200 l'anno, mentre i cani ce ne sono migliaia infetti. Sì. Per varia natura, che può essere un'immunodepressione oppure la tenera età, sì, un essere umano sviluppa questa malattia clinica, i sintomi anche questi sono abbastanza subdoli, ma caratteristicamente sempre presente una febbricciola che dura tanto e non regredisce con l'uso di antibiotici. Sì. Il volto diventa pallido, si ha un ingrossamento della milza e a questo punto si pensa quasi sempre a una malattia neoplastica e ematologica, e quando si fanno accertamenti si scopre che in realtà è una leishmaniosi. Ecco, si tira un sospiro di sollievo perché si cura. Molto, perché si cura molto facilmente. Senta, sui gatti siamo tranquilli? Cosa? Sui gatti siamo più tranquilli? Sì, i gatti siamo molto tranquilli. Il gatto è molto resistente, un po' come l'uomo. Sono pochissimi i casi riportati di gatti con leishmaniosi, ma veramente si contano sulle dita di una mano. Senta, dottor Gradoni, quindi proteggere il cane significa ridurre comunque i rischi. Istruzioni? Le istruzioni, purtroppo non abbiamo un vaccino perché questo parassita è molto complesso e quindi è molto difficile trovare un vaccino, però altre soluzioni sono state trovate e dati scientifici dimostrano che sono molto valide. Vale a dire, il cane deve essere trattato con prodotti specifici nei confronti del flebotomo, ne esistono 3 o 4 in commercio, che impediscono la puntura, oppure se il cane viene punto, comunque il flebotomo, essendo venuto a contatto con l'insetticida, muore. Per esempio, un cane infetto non può più trasmettere la malattia a nessun altro. Fra questi prodotti diciamo abbiamo una formulazione incollare, sì, che è molto comoda perché dura per circa 5 o 6 mesi ed è in pratica riesce a coprire tutta la stagione di trasmissione della malattia, cioè durante il periodo di attività dei flebotomi. Altre formulazioni invece usano quegli spot-on, quelle goccioline che si devono mettere sul dorso del cane, che però vanno ridate ogni 3 settimane, massimo un mese, durante tutto il periodo. Chiaramente non ha senso il loro uso durante il periodo invernale, quando non ci sono i flebotomi. Grazie dottore, buona giornata. Grazie a voi, buongiorno. Pronto soccorso. Sono le 11.23 e noi torniamo ad occuparci del tema di oggi. Le nostre unghie sono 20 e c'è da lavorare. Dottor Pazzaglia, noi abbiamo capito da quanto lei ci ha detto che le unghie possono ammalarsi o essere spia di un problema di salute generale. Ma è vero che se il problema interessa solo 1 o 2 unghie si può pensare ad una patologia strettamente ungueale, mentre se il problema si estende a più unghie è lecito ipotizzare un problema più serio? Mi riferisco ad una patologia sistemica oppure ad una carenza? Assolutamente sì, ha detto correttamente. Il discorso fondamentale è che non solo gli occhi sono lo specchio dell'anima, diciamo così, ma anche le nostre unghie sono lo specchio della nostra salute. Alterazioni limitate a 1 o 2 unghie possono essere una patologia psoriasica, possono essere una micosi, un fungo che interessa le nostre lamine ungueali. Se interessano tutte e 20 le unghie, si può trattare o di una patologia dermatologica che interessa anche gli annessi cutanei, oppure ci sono delle patologie sistemiche, ossia che interessano tutto l'organismo, che possono coinvolgere la nostra lamina ungueale, come ad esempio anche i pazienti con il tumore, con il cancro, che fanno la chemioterapia. Proprio la chemioterapia si realizza sulle lamine ungueali con un'alterazione caratteristica che si chiama linee di Bo o onicomadesi, e si legge proprio, come dicevo prima, come sulla corteccia dell'albero, quando è avvenuta anche da un punto di vista temporale. Giuliana ci chiama da Bergamo, poi abbiamo Lorenzo dalla provincia di Lecco e Luigi da Frosinone. Giuliana, iniziamo con le sue unghie. Buongiorno. Buongiorno, che cosa mi racconta? Senta, io ho un problema di questo tipo. Allora, riguarda solo un'unghia del piede, del piede, di entrambi i piedi, sì. L'indice. Che praticamente cresce in modo non giusto, cioè non è ben aderente al piede. Sì. Va un po' per conto suo. Esatto, un po' per conto suo. Anarchica. Si taglia un pochino e non è del colore delle altre, bello bianco, insomma. E questo, scusi, finisco così poi lascio. Questo purtroppo l'ha ereditato anche mia figlia che ha 5 anni, anziché sul dito indice, sul dito medio, solo del piede. Quindi, dottor Pazzagli, insomma, questo unghia che va un po' per conto suo è un tratto caratteristico del ramo femminile della famiglia di Giuliana. Sì, col termine indice immagino che sia il secondo dito, sì, quello, sì. Di fianco all'allo, cioè quello di fianco all'allo. L'indice è limitato per quanto riguarda il discorso delle mani. Sì, vabbè, ma noi ci intendiamo ugualmente. Sì, ma appunto per intendersi sì, proprio sì, da sì, questo... quello dei piedi, l'indice allora, dei piedi o il secondo dito del piede. Comunque, per quanto riguarda il coinvolgimento del secondo dito, appunto, quello di fianco all'alluce, probabilmente si tratta di dita martello, che è un'alterazione, spesso anche genetica, in cui proprio geneticamente determinato il secondo dito è un po' più lungo del primo dito e per questo va a sbattere nella scarpa praticamente. Invece che essere l'alluce, il primo dito che va a sbattere, che è la parte più grossa e quindi che sopporta il maggiore traumatismo, è un'alterazione abbastanza diffusa in sì. cui il secondo dito del piede è più lungo del primo e quindi va a traumatizzarsi in maniera maggiore, anche perché la signora diceva che il danno è bilaterale, cioè è presente da tutte e due le parti. Giuliana è ancora in linea, vero? Esatto. Sì. Ecco, ma bisognerebbe portare le scarpe sempre aperte, ma non si può, perché anche a Bergamo, poi a Bergamo quando fa freddo fa freddo. Anche la figlia, il terzo dito, solo in un piede. Tutte e due? Esatto, tutte e due. Anche in questo caso, dottor Pazzaglia, possiamo dare la colpa alla posizione del dito, alla sì, conformazione del dito? Sì. Sì, per la bilateralità sì e non c'è nulla da fare. Cioè bisogna utilizzare delle calzature che siano piuttosto ampie, capito? Il sandalo d'estate va bene, ma anche d'estate e d'inverno non utilizzare delle scarpe proprio strette, proprio esatto. In punta, mezzo numerino in più per salvare l'unghia. Esatto, Lorenzo poi... ci chiama dalla provincia di Lecco, buongiorno. Buongiorno. Come stanno le sue unghie? Ma le mie per fortuna stanno bene. Magnifico, allora di quale unghia ci occupiamo? Sì, per le unghie di piedi di mia moglie, che sono le tre centrali di entrambi i piedi, sì. Hanno il problema di una crescita, anche questo è un problema ereditario probabilmente come l'ascoltatore precedente, hanno un problema di crescita, anziché seguire diciamo la forma del dito, hanno una crescita quasi verticale o comunque diagonale. Il problema è che deve tenerle veramente cortissime, perché comunque c'è un problema poi con le calzature, specialmente d'inverno, che tendono a pressare, per cui c'è anche del dolore. E poi il discorso ovviamente anche estetico, che per le donne magari mettere i sandali d'estate, avendo magari questo problema alle unghie, doverle tenere quasi inesistenti, le crea dei problemi. Volevo sapere se c'è una possibilità di una correzione della matrice eventualmente. Grazie Lorenzo. Dottor Pazzaglia. Sì, probabilmente, come diceva correttamente l'ascoltatore, si tratta di un problema genetico su cui si è innestato un fattore traumatico. Sì. Da un punto di vista della, e quindi più o meno la situazione è quella che abbiamo descritto prima, però esiste una possibilità di trattamento, di condizionamento di quello che è lo stato dell'unghia, che sono dei trattamenti podologici ripetuti nel tempo. Esistono degli strumenti come delle vere e proprie frese, sì, che permettono di assottigliare queste unghie che per il traumatismo cronico diventano più spesse, diventano più grosse e quindi tolgono quello che è il dolore, perché come diceva l'ascoltatore, la moglie oltre che avere un aspetto estetico non gradevole ha dolore, che è la cosa fondamentale. Senta, dottor Pazzaglia, e se io decidessi di fare una ricostruzione delle unghie, cioè fare questi trattamenti dal podologo e poi ricostruire sopra delle unghie, quindi quelle con resine per sfoggiare dei piedini da fata con i sandali estivi, posso farlo o no? Con il gel, più che bisogna distinguere anche da questo punto di vista, questi sono trattamenti estetici, funzionali, comunque svolgono una funzione anche da un punto di vista medico, perché sì, tenga presente che nelle onicofagie una delle terapie è appunto la ricostruzione ungueale con gel. Sì. spesso risolve il quadro, ha capito? E la cosa che mi sento di consigliare è comunque il trattamento con i gel, che sono degli acrilati, sì, delle resine acriliche che vengono polimerizzate con una lampada e che è in sostanza quello che fa il dentista quando ricostruisce lo smalto del nostro dente. Ma questa me l'ha fatta capire bene. Dimmi che unghie hai e ti dirò come stai. Ce lo dirà il dottor Massimiliano Passaglia, dermatologo all'Università di Bologna. Abbiamo in linea con noi Luigi, che ci chiama da Frosinone. Luigi, buongiorno. Buongiorno al dottor Passaglia e a tutti gli ascoltatori. Senti, io volevo chiedere al dottore, io da 4-5 mesi a questa parte ho cominciato ad avere un cambiamento di colore delle unghie, soprattutto dal pollice indice ad andare verso il mignolo, diciamo a scemare mano a mano. Sì. Il tutto associato anche a un indolenzimento della punta delle dita e a cambiamenti di pelle. Io dopo aver fatto la doccia, ad esempio, sì, mi si staccava proprio la pelle dalla punta delle dita. Sì. E il mio medico ha associato il tutto, diciamo, almeno, diciamo, lui ha pensato a un fatto traumatico, perché io faccio un mestiere dove uso molto la punta delle dita, quindi sforzo molto la punta delle quindi dita. Quindi è un fatto traumatico. Sì. E nel frattempo, diciamo, ho fatto degli esami tipo elettromiografia, adesso non ricordo, sì, come si chiamava quell'altro esame, per vedere la funzionalità dei muscoli, dei nervi. Quindi, insomma, è già andato parecchio avanti, Luigi. Dottor Passaglia. Ma il quadro indubbiamente è complesso. Intanto saluto l'ascoltatore. Così, per l'associazione di alterazioni della lamina ungueale e del dolore, sì, mi viene in mente anche la psoriasi. Sì. È una malattia abbastanza diffusa che può essere slatentizzata, che può essere tirata fuori, diciamo, sì, così, da condizioni traumatiche. Quindi se c'è anche un utilizzo cronico da parte dell'ascoltatore delle prime tre dita della mano, sì, ci può essere una cosa di questo, e accompagnata al discorso della desquamazione delle dita e soprattutto dell'artropatia, del dolore, ha capito? Certo, perché le unghie i dermatologi le guardano con grande attenzione, perché possono essere proprio un segno di psoriasi e poi dell'artrite psoriasica. Esattamente, esattamente. Il quadro può essere, potrebbe essere quello, tutti i limiti di una diagnosi telefonica. E poi voi dermatologi avete proprio bisogno di guardare, ma noi oggi, e naturalmente essendo per radio, dobbiamo affidarci alle descrizioni che, devo dire, sono sempre fatte molto bene dai nostri ascoltatori. Allora, grazie a Luigi. Dottor Passaglia, molti messaggi mi chiedono come fare a riconoscere i funghi. Noi sappiamo che le nostre unghie possono essere aggredite da funghi e batteri, un po' come succede alla nostra pelle, no, dottor Passaglia? Perché le spore dei funghi presenti nell'ambiente contaminano anche in modo abbastanza facile lo spazio tra il polpastrello e l'unghia. Ci sono dei segnali? Allora, solitamente l'onicomicosi, ossia l'interessamento dei funghi, nell'adulto è abbastanza saltuario. Hanno un maggior interessamento nelle classi un po' più, diciamo, verso l'anziano, sì, però possono essere presenti assolutamente anche nel giovane adulto. È difficile distinguerlo per il dermatologo, perché occorre un esame che si chiama esame colturale, in cui si prende un pezzettino di unghia, lo si lascia in incubazione su un terreno particolare per circa 3 settimane e si vede se cresce il fungo. Il miglior consiglio è una visita dermatologica nel sospetto di un'onicomicosi. Ecco, così rispondiamo a tanti ascoltatori, a uno in particolare che mi scriveva come si riconosce dice che la sua unghia dell'alluce sembra guarita da una presunta onicomicosi con semplici lavaggi con bicarbonato, se questo è possibile, soprattutto se il problema può poi diventare anche occasione di contagio per i familiari. Dottor Passaglia, se io scopro di avere il fungo con l'esame, devo fare attenzione a asciugamani, eccetera? Ma diciamo che il fungo è abbastanza selettivo, nel senso che vuole solo determinate persone, non è che ci vadano bene tutti, quindi diciamo che ci sono persone che hanno una maggiore specificità, una maggiore incidenza di sviluppare infezioni micotiche, infezioni fungine, rispetto ad altre che magari utilizzano meno accorgimenti e non ne sono affetti. Proprio il fungo vuole solo certi tipi sceglie con cura di persona, sì. Ecco, senta, rispondiamo a Michele che ci scrive se c'è un'associazione tra onicomicosi degli alluci e ingrossamento generale dei linfonodi, è possibile? No. oddio, tirata un po' per i capelli o almeno per le unghie in questo caso. Sì, proprio molto per le unghie, tipo cultura medievale. Allora, Emiliana da Bari, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io ho un problema delle unghie e sono disperata. Sarà la fragilità, essendo lei donna, ho indovinato? Sì, sì. Ecco, una fragilità tremenda. Ho preso tante vitamine, bioscaline, biomineral, pentacher, pennellazioni, di continuo, ma non riesco in nessun modo a... ma Emiliana, mi scusi, lei le usa i guanti? Io non sono capace, ad esempio, quando... Io non sono capace. Lavare... Non li uso. Ma metto degli smalti indurenti e si spaccano anche con lo smalto si sfoglia. Cerco di non mangiare perché sono in sovrappeso, non lo so, comunque di vitamine ne sto prendendo tantissime. Emiliana, sa che noi donne siamo veramente le candidate ideali per le unghie fragili che si sfogliano, si spezzano. Dottor Pazzaglia, molto più noi donne che voi uomini, è vero? Assolutamente, tutte le affermazioni che avete fatto sono corrette da questo punto di vista, soltanto che bisogna sfatare un falso mito, che è quello del complesso vitaminico o dell'integratore alimentare. Cioè, come nella dieta non esiste purtroppo la pillolina magica che ti fa perdere 5 kg, 10 kg continuando a mantenere le stesse abitudini, egualmente per quanto riguarda la fragilità delle unghie o i coressi, che è il termine appunto per indicare queste unghie che si spezzano più facilmente, che si assottigliano, che non riescono a diventare lunghe, è dovuto principalmente da fattori esterni, e questi fattori sono più incidenti nelle donne perché le donne tengono le mani più a bagno. E quindi bisogna, cara Emiliana, anch'io devo convincermi come lei a usare i guanti, dobbiamo in qualche modo proteggerle, ed è vero che anche utilizzando delle creme idratanti sull'unghia si può fare qualcosa, forse più dello smalto indurente, dottor Pazzaglia? Sì, anche se lo smalto non è un problema, il problema è rappresentato dalla rimozione dello smalto. Ad esempio, utilizzare dei solventi o dell'acetone è quello che rende ancora più fragile l'unghia. Quindi il problema non è tanto lo smalto. Uno può utilizzare lo smalto, anche quello rosso, anche che anzi in determinati casi svolge una funzione di protezione, perché essendo una pellicola plastica impedisce che l'acqua, la disidratazione arrivi a livello della lamina ungueale. Il problema è non toglierlo spesso. E certo, però lei mi ha parlato di smalto rosso, anch'io ogni tanto mi faccio così a secondo questo desiderio di unghie laccate. Lei lo sa che immagino che lei non si lacchi le unghie, ma salta molto facilmente lo smalto, per cui è lì poi e siamo costrette ad utilizzare il solvente, perché non c'è nulla di più brutto dell'unghia smaltata con dei pezzettini mancanti. Ma chiusa la parentesi, a proposito di smalto, andiamo al colore, dottor Pazzaglia. Variazioni di colore, abbiamo citato quelle dei fumatori che spesso un tempo avevano le unghie ingiallite, ma le unghie ce ne fanno vedere veramente di tutti i colori, e un colore che viene spesso vissuto come un segnale d'allarme, il blu violaceo, è così, dottor Pazzaglia? Ma fino a un certo punto poi, come dicevamo prima, la lamina ungueale deve essere trasparente, quindi deve far vedere rosina sotto dei capillari che ci sono sotto. Le cosiddette cianosi, ossia il fatto che le estremità diventino bluastre, può essere anche un fattore contingente dovuto al troppo freddo, ad esempio. Se d'inverno repentinamente da una situazione fredda ci trasferiamo in casa, ecco che ci può essere questa alterazione, però non è un discorso di ipossigenazione, di malattie cardiache, capito? Certo. E anche di intossicazione, quindi non ci sono problemi. Le variazioni di colore possono essere sia esogene che endogene, nel senso possono essere determinate da un'intossicazione ambientale, qualche colorazione che è dovuta al tipo di lavoro che facciamo. Il suo paziente che faceva il nocino, ad esempio. Esatto, brava. Oppure possono essere anche da cause endogene, ci sono delle patologie che, o dei farmaci, anche delle medicine, che cambiano il colore delle unghie, lo fanno diventare più scuro. Dottor Pazzaglia, allora le bugie, queste macchioline bianche, che cosa sono? Le bugie o le carenze di calcio, anche ad esempio qui in Emilia è molto diffuso la credenza che le macchioline bianche siano dovute a una carenza di calcio. In realtà sono dei traumatismi. sono delle piccole botte che prendiamo sulle dita, ad esempio quelli che digitano molto sulla tastiera del computer e quelli che fanno una manicure con la limetta particolarmente aggressiva, esatto, possono avere queste macchioline bianche che si chiamano leuconichia, che in sostanza vuole dire unghia bianca, sì, che sono dei traumi che avvengono da dove nasce l'unghia, ossia la matrice, e si realizzano poi sulla lamina ungueale e crescono con progressione distale andando verso l'esterno, e quando il traumatismo cessa, cessano anche loro, ma non sono un sintomo di bugie o di, no, carenza, di calcio. E invece se le macchioline sono scure? Allora, intanto i nei possono interessare anche la infatti è quello che volevo toccare con lei. E bisogna anche porre particolare attenzione, però i nei, a differenza del resto della pelle, non si presentano con forma rotonda, con forma circolare, ma interessano praticamente una banda, ossia una striscia che si realizza a livello della lamina ungueale. Sì. Bisogna porre particolarmente attenzione quando si verificano queste cose, perché oltre che i nei, anche i melanomi possono interessare fortunatamente in maniera molto molto molto episodica, rarissimamente, però il melanoma può interessare anche la lamina ungueale, e sono i melanomi con la peggior prognosi, ossia quelli più cattivi, che più velocemente portano all'exitus. Quindi non sono tondi, ma sono proprio, interessano una banda dell'unghia. Una banda dell'unghia, esattamente. Andiamo a Lia, che ci chiama da Ascoli Piceno. Buongiorno Lia. Buongiorno. Volevo fare una domanda banale al collega. Ho le unghie degli alluci, dei piedi, che da sempre soffrono, diciamo, dalla parte mediale dell'attacco. Sì. Il solco mediale, quello che sta a contatto con il secondo dito, per intenderci, sì, è sempre, quasi sempre infiammato, è molto dolorante, non posso calzare scarpe, diciamo, a punta o strette, quindi devo portare sempre scarpe molto comode, e l'estetista continua a togliere sempre molte pellicine nelle poche sedute che ho fatto, dice è colpa di questa iperkeratosi che si è formata. Sì. Però prima il problema l'avevo solo da un piede, adesso gliel'ha fatto venire anche dall'altro, anche forse dall'altro. È meglio cambiare pedicure, non lo so, dottor Pazzaglia. Assolutamente sì. Ah, ecco, io pensavo di essermi sbilanciata troppo. Sì. In primo luogo perché gli iperkeratosi o calli, come vengono normalmente chiamati, non vanno tagliati, ma vanno ammorbiditi. Strumenti come il crelo, quelle lamettine che servono per tagliare i calli, dovrebbero essere vietate per legge, perché sono più i danni che inducono che il relativo benessere. Uno sta meglio nel momento in cui effettua il pedicure, perché il callo l'iperkeratosi viene rimosso, però nel giro di una settimana si riforma tutto come prima, anzi peggio. Il punto è rimuovere la causa che ha determinato l'iperkeratosi, perché l'iperkeratosi è una reazione della nostra pelle che avviene a seguito di un trauma, una botta che avviene in maniera cronica. Quindi più che intervenire da un punto di vista chirurgico, ossia di rimuovere la parte, consiglierei alla collega, di intervenire da un punto di vista dell'anatomia del piede, nel senso probabilmente con l'utilizzo di una soletta ben fatta, di un plantare, il piede assume una posizione corretta e quell'iperkeratosi non si forma più. Quindi questo messaggio è attenzione anche alla manicure, alla pedicure troppo aggressive, soprattutto occhio a che gli strumenti siano accuratamente sterilizzati, meglio portarsi gli attrezzini da casa, perché abbiamo sottolineato più volte è meglio, dottor Pazzaglia, avere la certezza che i nostri piedi, le nostre mani siano toccati da strumenti assolutamente sterili. Però adesso proprio anche per obbligo di legge anche il pedicure, anche il podologo deve avere ferri disinfettati in autoclave, quindi certo. È chiaro, le cose soprattutto da evitare io penso che siano le cose casalinghe, cioè la manicure, la pedicure che fa il giro del rione, questo assolutamente da evitare, però professionisti per obbligo di legge e per controlli devono, assolutamente, devono avere cose di questo genere. Dottor Pazzaglia, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Grazie. Grazie. Anche a voi. Salve. Bene, bene, adesso, cari amici, passiamo in cucina. Siamo giunti alla terza tappa del nostro viaggio alla scoperta dei magnifici 20, alias i buoni alimenti che si prendono cura di noi. Come guida abbiamo il dottor Marco Bianchi, autore del libro I Magnifici 20, nonché ricercatore ed esperto di comunicazione didattica scientifica di IFOM. L'IFOM è l'Istituto della Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro di Milano di Oncologia Molecolare. Dottor Bianchi, bentornato. Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio 24. Oggi vi vorrei parlare degli shiitake. Shiitake, che sono dei funghi che troviamo comunemente in qualsiasi supermercato sotto il nome di lentinus, o altrimenti appunto come shiitake. Shi vuol dire quercia e take fungo in giapponese. Infatti sono dei funghi orientali, crescono naturalmente ai piedi delle querce ed hanno proprietà davvero terapeutiche eccezionali. Pensate che comunque sono considerati degli elisir di lunga vita, e tra le loro qualità nutrizionali ovviamente mi preme sottolineare che sono ricchi di minerali come potassio, sodio, fosforo, magnesio, alluminio, calcio, zolfo e ferro, e anche tante vitamine del gruppo B come tiamina, riboflavina e niacina. Il loro principio attivo però, quello che viene studiato anche in laboratorio, è l'eritadenina. Questa sostanza, insomma, è stata studiata perché ha forti capacità antitumorali, riesce ad abbassare il colesterolo circolante in soggetti ovviamente che sono comunque sani, insomma, dal punto di vista della colesterolemia, e riescono appunto ad abbassare con una posologia circa di 90 grammi al giorno per circa una decina di giorni di assunzione. Ma che sapore hanno e come possiamo noi prenderci cura di lui, quindi metterlo in padella? Allora, sicuramente riusciamo tranquillamente a cucinarli come normali funghi, lasciandoli appunto in ammollo per qualche minuto, insomma per una ventina di minuti, e poi li facciamo magari soffriggere con un pochino di olio di sesamo, è la loro morte proprio, o l'olio extravergine di oliva, e un pochino di aglio. Dopodiché possiamo condirci una buona pasta asciutta, oppure, come preferisco io fare abitualmente, in una vellutata di cavolfiori. Wow, buona! Si trovano ancora i cavolfiori, sì. Lessano, sì. Si passano, si aggiunge un po' di brodo vegetale, poca acqua. Sì, e poi aggiungiamo un paio di cucchiai di farina di riso per aiutare un po' ad addensare, dopodiché basta. Ci appoggiamo sopra i nostri funghi città che abbiamo fatto saltare in padella. E siamo una bellezza, come si dice. Grazie, dottor Bianchi. Allora, alla prossima settimana per un nuovo alimento. Intanto io ringrazio voi che ci avete seguito. Appuntamento a domani, come sempre, dopo il GR delle 11. Buonissima giornata da Nicoletta Carbone.